Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. I filmini di famiglia sono un tesoro inestimabile. Ci permettono di fissare un momento su pellicola o DVD. Poi hanno la decenza di scomparire per apparire nuovamente anni dopo quasi per magia. Recentemente, nascosti dentro la videocassetta del matrimonio di un mio cugino, mi sono imbattuto nelle riprese compiute a tradimento da mio fratello della mia famiglia mentre assiste a un'edizione straordinaria del TG1 nel tardo pomeriggio del 19 aprile 2005, una data non casuale, la data dell'elezione al soglio pontificio di Papa Benedetto XVI. Rivedo mio cugino Alessandro che azzarda previsioni, mio papà più giovane di adesso che stappa una bottiglia all'annuncio della fumata bianca, io 19 anni appena compiuti che confabulo su chi vorrei incontrare come successore di Pietro alla GMG di Colonia, che sarebbe stata da lì a pochi mesi. Poi la voce dell'allora camerlengo, lo spagnolo Martinez Somalo, viene sovrastata dalle urla frenetiche e scomposte di Bruno Vespa: Ratzinger, Ratzinger. In cui in pochi secondi sappiamo chi è il Papa, ma non sappiamo ancora come si chiamerà. Giovanni Paolo III, Paolo VII, c'è chi scommette su Clemente, io sono sicuro sarà Giovanni XXIV a guidare la Chiesa. O Leone XIV, non ne sono poi così tanto sicuro. E invece, Benedetto. Ma perché Benedetto? Benedetto XV, il genovese Giacomo dalla Chiesa, fu il Papa della Pace negli anni durissimi della Prima Guerra Mondiale. Penso all'Iraq, all'Afghanistan, all'Africa, conflitti ribollenti più che mai in quell'anno. Scelta azzeccata, decreto. Ma poi, subito, la folgorazione. San Benedetto da Norcia. E penso, immediatamente, che forse proprio da lui Joseph Ratzinger ha deciso di prendere il nome. San Benedetto, patrono dell'Europa, fondatore del monachesimo occidentale, ora et labora, prega e lavora. La regola di vita che inserisce l'uomo sì nel cammino verso il cielo, ma propone un cammino operoso che permetta all'uomo di far assomigliare con la sua opera un po' di più la terra al cielo verso cui tende. Sarà un papa attento ai temi sociali, mi dissi, ed in effetti opere come la Caritas in Veritate non si improvvisano. Il papa tedesco ci ha permesso, anche con il suo apostolato, di riavvicinarci al carisma di San Benedetto da Norcia. Forse è il caso, per una rubrica che di dottrina sociale si occupa, di dedicare un po' di spazio a questo importante faro della cristianità agli albori. Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. Con il suo lavoro e la sua laboriosità, l'uomo, partecipe dell'arte e della saggezza divina, rende più bello il creato, il cosmo già ordinato dal Padre. Suscita quelle energie sociali e comunitarie che alimentano il bene comune, a vantaggio soprattutto dei più bisognosi. Il lavoro umano, finalizzato alla carità, diventa occasione di contemplazione, si trasforma in devota preghiera, in vigile ascesi e in trepida speranza del giorno senza tramonto. In questa visione superiore, il lavoro, pena ed insieme premio dell'attività umana, comporta un altro rapporto, quello cioè essenzialmente religioso, che è stato felicemente espresso nella formula benedettina, ora et labora. Il fatto religioso conferisce al lavoro umano una spiritualità animatrice e redentrice. Tale parentela tra lavoro e religione riflette l'alleanza misteriosa, ma reale, che intercede tra l'agire umano e quello provvidenziale di Dio. È con noi in collegamento telefonico padre Norberto Villa, monaco benedettino e abate di Praglia. Grazie per essere con noi, padre. Buongiorno. Si riconosce nelle parole del compendio che riprendono un discorso di Giovanni Paolo II nei suoi primi anni di pontificato? Sì, è un passaggio molto denso che illustra l'interpretazione sì della dottrina sociale della Chiesa in riferimento al lavoro e al ruolo appunto che l'uomo riveste in riferimento al creato e nel contesto della provvidenza di Dio, ecco, il lavoro come partecipazione all'opera stessa di Dio, quando viene interpretato appunto a partire da un riferimento, diciamo, spirituale di fede, ecco, che permette di cogliere appunto il lavoro nella prospettiva del compimento della volontà di Dio nel cammino della nostra vita, in termini così di speranza, in termini di promozione umana, in termini di rapporti umani e di umanizzazione, ecco, dell'attività stessa del lavoro in funzione appunto dello sviluppo e della promozione umana. Non vogliamo fare una puntata tanto storica, però bisogna iniziare con un breve cenno storico. Senza i benedettini, molto della cultura classica sarebbe andato perduto, sia anche dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista della letteratura. I benedettini, con i loro Oret Labora, hanno permesso all'Europa di attraversare e poi di uscire dal Medioevo. Il ruolo del movimento monastico benedettino è stato come dire decisivo, ecco, per come dire traghettare tutta la realtà storica, ecco, della nostra sia tradizione ecclesiale che culturale, proprio nel passaggio tra la fine dell'impero romano e l'avvio del Medioevo. Come sappiamo, un periodo poi che ha coperto circa 1000 anni di storia, ecco. E in questi 1000 anni di storia un ruolo importante lo ha rivestito appunto il movimento monastico benedettino, sia dal punto di vista della evangelizzazione e sia dal punto di vista della promozione umana, dell'inculturazione, della proprio come volano di civilizzazione. Ecco, la regola ha svolto questa funzione importante, sia come documento e come riferimento, ecco, di promozione della fede, di diffusione della fede cristiana, ecco, quindi come strumento di evangelizzazione e di comunione, sia anche dal punto di vista della promozione umana e quindi come strumento volano di civilizzazione. Ci fermiamo qualche istante, padre, e torniamo tra pochissimo. Sì, prego. Il bene di tutti, parliamone. Ma voglio parlare, perciò paghi te. Che tu sia un angelo o un diavolo, ho tre domande per te. Chi prende l'Inter, dove mi porti? E poi di soprattutto perché? Perché? Ci dovrà essere un motivo, no, perché forse la vita la capisce chi è più pratico. Hai un momento, Dio, no, perché sono qua, insomma ci sarei anch'io. Hai un momento, Dio, o te o chi per te. Quanto mi costa una risposta da te di su, quant'è? Ma tu sei lì per non rispondere, e indossi un gran bel gilet, e non bevi niente, o io non ti sento. Com'è? Perché? Perché? Qualche cosa cosa in cui credere, perché non riesco mica a ricordare bene che cosa è. Hai un momento, Dio, no, perché sono qua, se vieni sotto offro io. Hai un momento, Dio, lo so che fila c'è, ma tu è un attimo per me. Nel mio stomaco sono sempre solo, nel tuo stomaco sei sempre solo. Ciò che sento, ciò che senti, non lo sapranno mai. Almeno disse il viaggio è unico, e se c'è il sole di là, se stai ridendo io non mi offendo, però perché, perché nemmeno una risposta ai miei perché, perché non mi fai fare almeno un giro col tuo bel gilebe. Hai un momento, Dio, no, perché sono qua, insomma ci sarei anch'io. Hai un momento, Dio, o te o chi per te, avete un attimo per me. Blu Radio Veneto. Il bene di tutti, parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori al bene di tutti, parliamone. Oret labora, il carisma di San Benedetto. Siamo in collegamento con padre Norberto Villa, abate di Praglia. Grazie per essere con noi, padre. Sì, eccomi. Qual è il successo insito nella formula Oret labora? Sì, La regola, come sappiamo, è un documento fondamentale, ecco, nella nostra tradizione spirituale, in quanto è una sintesi significativa, un'attualizzazione del Vangelo, della parola di Dio, in funzione appunto di una esperienza spirituale, ecco, a pieno titolo, ecco, con un coinvolgimento sia personale che comunitario. Ecco, San Benedetto all'inizio della regola, nel prologo, propone il monastero proprio come spazio di vita, dove trovare la vita e vivere giorni felici. Ecco, chi desidera la vita, chi desidera trovare giorni felici, ecco, deve immettersi in questo cammino sotto la guida del Vangelo e ritrovarsi in questo spazio di vita dove condividere i beni spirituali e materiali in funzione di questa esperienza di conoscenza di Dio. Ecco, cercare Dio, appunto, in questa ricerca di Dio poi la ricerca di Dio si amplifica in una condivisione, ecco, di tutti i beni. Quindi la regola di Benedetto ha promosso questa esperienza di vita configurandola nei monasteri, ecco, nelle quattro mura del monastero, dove, come sappiamo, si è edificata sia la vita spirituale sia la vita personale ed ecclesiale, ecco, in modo significativo, valorizzando tutte le dimensioni della persona umana, quella fondamentale spirituale, quella culturale, quella sociale, quella della promozione appunto della vita in tutti gli aspetti. E questo spiega anche come i monasteri abbiano assunto questo ruolo di riferimento e di centri appunto di sviluppo sia dell'evangelizzazione che della civilizzazione. Attraverso anche il lavoro, giusto? Attraverso il lavoro, attraverso la promozione, appunto l'affinamento delle tecniche di lavoro nei vari ambiti, a cominciare dall'agricoltura, dalle foreste, dall'ambito agricolo, sia quello più specificamente culturale, con la trascrizione dei codici e quindi con il passaggio attraverso le generazioni della cultura e anche delle varie sintesi dal punto di vista così esperienziale e teologico che si elaboravano nei monasteri. Ma cosa direbbe Benedetto del lavoro di oggi, lui che ha impostato anche la sua spiritualità attraverso il lavoro, un lavoro che è precario, un lavoro che non è stabile e un lavoro i cui frutti, piuttosto che arrivare all'uomo, vengono fagocitati da un'economia finanziarizzata? È ovvio che per quanto riguarda l'esperienza benedettina, la proposta benedettina, si diparte da un piano spirituale, ovviamente, e questo piano spirituale presuppone il rispetto dell'uomo, la valorizzazione delle sue capacità in funzione di una crescita personale e comunitaria che sia significativa. Come sappiamo tutti, l'economia significa la buona gestione della casa e quindi una promozione di vita. Non a caso San Benedetto pone a fondamento della vita monastica la pace come valore assoluto e primario, la pace che, come sappiamo, è un dono che deriva da Dio, ma quando l'uomo risponde in modo adeguato alla sua parola, alla sua volontà, coinvolgendosi in una promozione di vita che è anche comunione, che è anche emulazione, che è anche come dire lode rivolta al Creatore, ecco. Quindi è fondamentale a mio avviso rispettare e fondarsi sulla identità spirituale dell'uomo se vogliamo poi ritrovare tutti gli altri valori, altrimenti l'aspetto etico, l'aspetto economico, l'aspetto sociale, l'aspetto politico non hanno il dove ancorarsi. Ecco. Ripartire insomma dall'ora per riscoprire il labora? Sì, tenendo presente che appunto come si glorifica Dio con l'opera di Dio, che è la liturgia, che è la preghiera, espressione della Chiesa appunto rivolta a Dio come espressione di solidarietà, di comunione con tutti i nostri fratelli, con tutti gli uomini, con tutta la famiglia umana, ecco che nello stesso momento anche il lavoro è un'opera che, come dire, deve tradurre questa comunione in termini di solidarietà, in termini di condivisione, e questo dice anche la fecondità che ha manifestato la tradizione vivente benedettina attraverso la regola, sia in epoche diverse, sia attualmente in aree geografiche di diverso impianto e impatto culturale, dall'Africa all'Asia, alla Sud America e così via, insomma, oltre che in Europa. Abbiamo capito tante cose, grazie comunque per la sua testimonianza. Proprio in 30 secondi, abbiamo ancora pochissimo tempo. Sì. Cosa da dire, Benedetto, all'uomo di oggi e qual è l'attualità del suo messaggio? Abbiamo veramente 30 secondi. Sì, direi che sarebbe da leggere in modo plastico e architettonico la proposta del monastero benedettino, in particolare noi per Praglia del Chiostro Pensile. Vale a dire un unico spazio dove ci si ritrova alla mensa spirituale della Chiesa, alla mensa culturale della biblioteca, alla mensa politica, diciamo, del capitolo, nella condivisione delle decisioni e del discernimento pratico del cammino comunitario, e sia poi al refettorio, nella condivisione del pane quotidiano. Quindi ecco questa immagine di queste quattro mense, come dire, dipartendosi dalla mensa spirituale, ecco che c'è questo, interviene questo principio di incarnazione, quindi quella comunione che nasce in chiesa si esprime, si declina in tutti gli ambiti poi dell'esperienza umana. Grazie, speriamo che Benedetto riesca a istruire la nostra società verso queste quattro mense che lei ha delineato. Grazie per essere stato con noi, padre. Bene, buone cose, arrivederci. Ci troveremo nuovamente, carissimi ascoltatori, la settimana prossima sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltarci grazie al podcast sul nostro sito. Potete contattarci mandandoci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, un saluto e alla prossima. Avete ascoltato Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.